Siamo in contatto con un ragazzo rinchiuso dentro il CIE di Ponte Galeria. Ciao, ci puoi spiegare la situazione attuale? Sì, posso parlare? Sì? Sì, sì. Sì, ce l'abbiamo un ragazzo da stamattina, già lì, chiuso dalla vicina alla mensa, e già è massacrato, e già tagliato tutto. E questi qua stanno guardando da 3 ore, stanno guardando lui mentre lui si taglia, e stanno ridendo di lui fino a che già è iniziato il nervosismo. Perché già qua la situazione è un disastro totale, stanno facendo tutto quello che danno per massacrare le persone, stanno abusando di tutte le leggi, non sanno che leggi, siamo qua come bestia, peggio delle bestie, perché le bestie si trattano di più. Ora già ci sono le persone qua, già si sta bruciando tutto e ci stanno mettendo la carica dall'altra parte, e vedi già. Mentre non vogliono fare la carica, c'è il ragazzo di là che sta ammazzando, e già tutto sanguinato, tutto con sangue, e loro non si ridano, anzi si pensano solo a fare il problema, a creare il problema. Ogni volta mettono le mani, hanno massacrato di persone, di botti, ci sono di persone che sono stati anche rotte il naso, che hanno da operare all'ospedale, ci sono persone che hanno portati via, sono algerini, hanno portati in Tunisia. Ci sono di persone qua che stanno in sciopero della fame da 18 giorni, che sta ammazzando. Ci sono di persone che già hanno malattia di schiena, ci sono di persone che hanno abuso del dottore Maurizio, era lui era il direttore di Ostia, stanno facendo tutto tramite il dottore di Ostia, sono coperti, c'è il funzionario che fa la commissione internazionale, che dice un membro della commissione, stanno abusando di tutte le leggi, ha capito com'è? Allora ascolta, ha capito? Ascolta. E qua già sta bruciando tutto, ormai questi stanno pensando solo a massacrare le persone, non stanno pensando a guarire o a fare i loro doveri, non lo so se la legge italiana è questa, non lo so se la legge italiana è questa. Siamo arrivati a questa. Allora ascolta, senti un rumore, è una battitura per caso? Sì. Allora. Non ti sento bene. Neanche io, però hai la possibilità di raccontare in diretta tutto quello che succede, quindi almeno chiunque può ascoltare quello che sta succedendo in questo momento. Non ti ho sentito bene, dimmi. Dico, tu hai la possibilità di raccontare tutto quello che sta succedendo in questo momento. Qual è l'atteggiamento delle guardie in questo momento? Che cosa? Allora, ci sono le guardie presenti dentro le gabbie? Sì, sì, sono in stanno facendo la carica, stanno salendo sopra il... Stanno salendo stanno sopra? Facendo la carica, stanno facendo la carica, stanno già dall'altra parte, e ci sono gli altri sopra, al tetto. Ok, alcuni ragazzi sono sopra il tetto. Mentre il ragazzo ancora sta lì, chiuso da solo, e sta ancora tagliando. Pensa un po' che uno che sta tagliando da 2 ore. Capito come? E lui non ce l'ha, lascia passare, non ce l'ha. Questi, lui ha contattato loro, l'ambasciata, e l'hanno detto, questi non hanno parlato proprio di loro. Stanno lì solo a aspettare. E è arrivato il momento di già delle persone che già non ce la faccio più di queste cose qua. Capito come? Senti le cani, le cose, io sono allontanato un po'. Ci sono i cani dentro il centro. Tutto di là, stanno ridendo e stanno guardando solo il ragazzo, stanno pensando solo al picchiare le persone. Mi senti? Sì, sì, ti sento. Stiamo ascoltando tutti, anche i rumori dentro il centro, per capire quello che sta succedendo. Sì. Non stanno preoccupando di niente, quelli che stanno malati, quelli che stanno sopra, non se ne fregano proprio, capito? Se ne fregano solo ammazzare le persone, lasciarli lì, non lo so con quali trattati si portano anche le persone al posto del loro paese, le portano altri paesi, stanno portando le persone dalla Tunisia, hanno portato 7 persone, sono algerini, sono ora di già in arresto in Tunisia. E questi, che ce ne frega, tanto l'accordo c'è fra di loro e l'ambasciata, capito com'è? Perché quello che è successo ieri è il fatto che le persone che arrivavano dal mare erano state trasportate dentro il CPA di Elmas a Cagliari, poi trasportate dentro il CIE di Ponte Galeria, avevano iniziato uno sciopero della fame. Hanno iniziato il sciopero della fame. E la direzione del centro... Ha capito com'è? alla carico a Roma. Hanno iniziato il sciopero della fame perché loro hanno portato, quanti sono? 30? Sono 30 o di più di 30. Ci hanno lasciato il mezzo e l'altro mezzo, non lo so il criterio del giudice, ma comunque gli altri hanno iniziato il sciopero della fame. Ci ha chiamato la Floriana, dottoressa di qua, degli Oxulum, l'ha detto una promessa che la fa uscire il giorno 8. E l'hanno patriati a Tunisi, ma ti rendi conto? A Tunisi! L'hanno rimpatriati a Tunisi, che non è neanche il paese. Ok, non è neanche il paese di provenienza, perché ragazzi. Non è neanche il paese d'origine! Non è neanche il paese d'origine! Non lo so chi l'ha fatto mandare! C'ha la raccolta, fra di loro, ho capito come. E ora di già se ce l'hanno a morte con me, perché io l'unico che sto parlando a radio, parlo con tutti quelli che posso parlare. Perché se stanno trattando male, stanno buttando le persone con le medicine e stanno mandando di schifezza proprio, il mangiare anche scaduto. E sempre la stessa cosa, tenete di lì, il che la cosa non è uguale agli altri, mentre stanno massacrando tutti qua. Allora, adesso la situazione è che alcuni ragazzi sono sul tetto, ma ci sono fiamme dentro il CIE, qualcosa è andato a fuoco. Ci sono le fiamme in CIE. Mentre loro stanno, non volevano fare la carica, mettono i caschi per metterli di più, vogliono fare solo il modo intimidazione, l'unico modo che ce l'hanno, perché la legge non lo stanno facendo la legge, loro anzi lo stanno trattando male la legge, fanno quello che lo vogliono loro. Ovviamente è esplosa la situazione dopo una serie infinita. Esplosa, perché loro non vogliono solo questa, vogliono arrivare a questa. Stanno ammazzando le persone, stanno massacrando delle persone. E vedi, quanto vedano una persona che sta ammazzando, fanno l'accordo fra di loro, fanno uscire all'ospedale e lo fanno scappare di là. Capito? Con l'accordo con la polizia, con la dottoressa Floriana, con il dirigente sanitario. Ok. Secondo me questi ce l'hanno anche morto con me, mi hanno massacrato dei botti prima. E ora con questo diciamo buonanotte. Io spero che solo che uno prendi atto da questa situazione qua. Speriamo che uno del Corte Europeo, io ho scritto al Corte Europeo, mi hanno mandato una ricevuta di ritorno, è sconosciuto al Dipartimento di Polizia di Stato, mentre io ho scritta con l'indirizzo della CIA qua, capito com'è? Io mi trovo qua in centro, e le mie lettere arriva al polizia di Stato e mettono sconosciuto. Se questa vogliono fare questa, capito com'è? E la lettera che sto aspettando per metterla nella commissione ancora non l'ha avuto e non lo avrà mai, perché loro non lo prendono. Allora, ovviamente noi possiamo rimanere in diretta quanto vuoi, quanto volete, anche se vuole parlare qualcun altro. I microfoni sono aperti anche per raccontare. Ecco, ti passo la persona di là che sta ammazzando. Lui non parla bene italiano, allora, ma parla sudamericano. Allora, e prova, di là dall'altra parte è chiuso. Allora prova un attimo a rimanergli allora, vicino, sì, così parla insieme. Ma fai parlare un po' italiano. Fai parlare un po' italiano. Non sa parlare. L'altro sa parlare italiano. Chiamalo così, spiega il radio, ho capito com'è. E radio direttamente, ha capito? Stanno chiuso, aspetta, se trovo uno che parla sudamericano e spiega questa, è radio direttamente. Pronto? Pronto, sì, ti sentiamo. Che era la... Aspetta, oh. Sì. È un giornalista in radio diretto, no. In radio diretto. Parla spagnolo? Non siamo giornalisti, siamo ragazzi e ragazze che vengono anche lì. Manuel Lobo Figueroa. Ha tagliato tutto, questo non lo vuole medicare, lui se ne vuole andare solo al paese, e questo lo ritengono qua, lo stanno solo a guardare e se mettono a ridere. Ok, il ragazzo praticamente non vuole più stare dentro il centro e accetta anche la deportazione, ma non vogliono portarlo al suo paese. Claro, io ho parlato con il consul ha detto che ha mandato tutto, sono loro che non lo vogliono mandare. Ho parlato, è tutte bugie che dicono loro, perché io ho parlato io con il consul. Capito? Spera che stai hablando, spera che stai hablando con la mina, Ho capito la situazione, almeno abbiamo capito anche la protesta del ragazzo. Claro, sono due ragazzi, no, che vogliono andare via, il consulato gli ha firmato, il loro non lo vuole mandare via. Ok, ok, ho capito benissimo. Senti, ascolta, capito? Se mi puoi ripassare l'altro ragazzo, così almeno capiamo com'è la situazione. Pronto? Sì. Sì, allora, ma sta bruciando tutto, eh? Sì. Sta bruciando il centro, il CIE di Ponte Galeria, il lago di Ponte Galeria sta in fiamme. Sta bruciando tutto. Ho capito. E vuoi rimanere in diretta o preferisci che ci aggiorniamo fra un pochino? Ecco, stanno uscendo, ecco, già. Stanno uscendo delle celle perché non ce la fanno più ormai anche con l'aria tossica. Mentre la polizia ormai già si è nascosta di là un attimo per mettere la carica per bene, ha capito com'è, per vedere la situazione. Loro. La polizia si prepara a caricare, ok? Ah? Questa è la descrizione. La polizia si prepara a caricare, le celle sono state aperte perché c'è molto fumo. Sì, molto fumo e già noi già da questa parte non vogliamo neanche la polizia, tanto già siamo morti. Al posto di morire con loro puntura, piano, se ammazziamo noi da soli così, almeno tutto il mondo sa tutto il mondo di questi abusi che stanno facendo, sa, devi sapere tutto il mondo di questi abusi che stanno facendo qua. Siete all'ascolto degli 87.9 di Onda Rossa, la mia voce è qui per accompagnarvi con un po' di musica, ma in realtà è per dare la possibilità ai ragazzi, alle ragazze rinchiuse dentro il CIE di Ponte Galeria, di raccontare a chi è all'ascolto quello che sta accadendo in questo momento dentro il CIE, e tanto così per ricordarlo a chi si fosse messo all'ascolto in questo momento. Nel CIE di Ponte Galeria in questo momento c'è una tensione molto forte, sembra che stia prendendo a fuoco una parte del centro, data la rabbia delle persone rinchiuse. Alcune persone sono sui tetti, la polizia ancora non è intervenuta e comunque c'è un forte stato d'allerta. Diciamo che la protesta questa mattina è sfociata in una protesta collettiva, partendo da un atto estremo di autolesionismo che un ragazzo, data la disperazione nel cercare in ogni modo di lasciare le gabbie del centro, chiedendo addirittura di essere deportato nel paese dove è nato, nonostante la sua famiglia sia qui in Italia, e rispondendo a questa, diciamo, protesta individuale, la direzione non ha fatto null'altro che lasciarlo lì, quindi il ragazzo ha iniziato a tagliarsi e dati i mancati soccorsi del personale sanitario in servizio, così come veniva raccontato dalla voce dei reclusi, è iniziata la rivolta e quindi per ora la tensione rimane piuttosto alta. Rimarremo qui aspettando nuovi aggiornamenti e nuove telefonate dai ragazzi e dalle ragazze rinchiuse dentro il CIE. Allora, torniamo in voce. Siamo in diretta con il CIE di Ponte Galeria. Spiegaci qual è la situazione. Sono arrivati già centinaia di polizia, ok? Centinaia di polizia. Non lo toccare, centinaia di polizia. Non lo toccare. Non lo toccare. Non lo tocchi. Non lo tocchi, ok? Non lo tocchi. Ok. Dai. Ok. Ok, siamo qui. Siamo qui. Basta la testa, basta la testa, la porta. Basta. Che facciamo? Basta. Che facciamo? Che facciamo? Dai. Dai. Che facciamo? Che vogliamo fare? Allora, che faremo fare? Senti. Chi abita qua? Bene, gli altri fuori. Siamo qui tutti noi. Siamo qui tutti uniti. Siamo qua tutti uniti noi. Dobbiamo stare uniti qua. Dobbiamo chiudere e verificare i danni, forza. No. Ci abbiamo ammazzato le persone qua. Me fare. Capito? Ascolta, verificare i danni. Verificare i danni, allora siamo sentati. Senti. Sì, vabbè, senti, adesso dobbiamo chiudere i sensori. Siamo qui. Ecco, stanno mettendo la carica per ammazzarci. Ok, cominciamo più, dai. Stai. Ok, stanno mettendo la carica, volevamo ammazzarci. Allora, ci stiamo mettendo questo vettore. Ecco, ok, dai. Va bene, dai. A posto. No. Siamo qua rimasti, siamo qua rimasti. Non sta uscito nessuno di noi. Pronto? Allora, no, io ci sono. Stavo all'ascolto, stavo cercando di capire un pochino la situazione, ma si racconta da sola. Sono arrivati centinaia di polizia, tutti con i caschi blu. L'atteggiamento mi sembra piuttosto arrogante, piuttosto violento. Sì, sì, sì. Vogliono entrare qua, di là, vogliono dividere. Siamo rimasti in unica stanza insieme, uniti. Ecco, almeno noi siamo qua, non ha bisogno né di loro né di niente di loro. Ecco. Ok, giustamente non li volete vedere, ok? Già che siete costretti a stare là dentro. Non abbiamo niente da fare con loro. Non bisogna niente da fare con loro, perché già ora già tu sai come funziona. Ormai. Stanno massacrando le persone. L'altro già hanno portato di là, non lo so, già che cosa è successo a lui. Già. È tutto sangue, tutto. È tutto. Quindi la rappresaglia ormai riguarda tantissime forze dell'ordine dentro gli uccidi. centinaia, già sono entrati centinaia di tutti i caschi blu, cani, tutto. Questa ammazzano le persone, ecco, già è entrato il ragazzo che già ci hanno messo un po' di alcol, forse là sopra le taglie che c'era. E già qui lo vedo dall'altra parte. Capito com'è? Ho capito. Senti, ma sapete qui, loro non vogliono dividere. Allora, ascolta, ma voi sapete com'è la situazione? Avete sentito per caso le ragazze del femminile? Com'è la situazione no, non là? Non abbiamo contattato le ragazze perché non c'era tempo neanche di respirare. Ormai solo macerie fuori del settore. Solo che noi siamo qua rimasti uniti, non so quanti siamo. Almeno 20-25 persone siamo qua dentro. Ho capito, quindi vabbè, ovviamente voi volete rimanere tutti uniti perché è l'unica maniera per resistere insieme e difendervi anche. Sì, quello che dobbiamo stare uniti di qua. Speriamo che qualcuno là fuori ci ascolta le nostre grida. Capito? Ovviamente ragazzi, se volete interrompere la diretta per... Poi ci risentiamo magari in qualsiasi momento, qui i microfoni sono aperti anche per voi, sono i vostri microfoni. Grazie a voi, grazie. E speriamo che qualcuno da fuori la senta il nostro grido.